Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa europea. Questa settimana iniziamo dall'argomento che è tornato prepotentemente alla ribalta, che è la crisi del Portogallo. Il Portogallo è uno dei paesi, insieme alla Grecia, alla Spagna e anche all'Italia, che ha più sofferto tra quelli dell'Unione Europea, e c'è stato un tentativo di ristrutturazione del debito, si è tentato di trovare un accordo. Ora però si capisce che queste misure non hanno poi funzionato così bene. Abbiamo parlato del Portogallo anche la scorsa settimana con quell'articolo, ricorderete, che sottolineava come la crisi abbia aumentato le differenze tra i paesi poveri e quelli ricchi. E questa volta prendo per riportarvi la notizia sul Portogallo un quotidiano tedesco, Handelsblatt, che è il principale quotidiano economico tedesco, anche se in Germania esiste anche una edizione di Financial Times che si chiama Financial Times Deutschland, però questo è lo storico quotidiano economico tedesco, e ha scritto Handelsblatt 3 giorni fa: con la crisi politica in Portogallo la realtà ha smentito tutti gli ottimisti che pensavano che il peggio della crisi fosse ormai passato. Finora i focolai di incendio, scrive Handelsblatt, in Grecia, Cipro e Portogallo hanno tenuto in allarme a turno i salvatori dell'euro. Oggi però tutti i problemi si presentano contemporaneamente. La crisi politica in Portogallo ha generato una perdita del 7% alla borsa di Lisbona, e il DAX, che è l'indice della borsa di Francoforte, ha perso più del 2%. Sapete, aggiungo io, che spesso succede questo effetto domino, cioè se una borsa ha un calo che riflette una notizia, come in questo caso quella appunto del mancato salvataggio, del peggioramento delle condizioni economiche, poi anche altre borse seguono. Quindi, scrive ancora Handelsblatt, il governo greco lotta con la Troika per il pagamento della prossima tranche di aiuti da 8,1 miliardi di euro, e Cipro ha ancora bisogno di diversi miliardi di euro. Persino l'ottimismo del presidente della BCE Mario Draghi, scrive Handelsblatt, sembra essere sparito. E aggiunge il quotidiano, il programma di acquisto illimitato di titoli di Stato dei paesi in crisi e il tasso di riferimento allo 0,5% non possono rappresentare una soluzione definitiva per la crisi. Passiamo a un altro tema caldissimo, se ne continua a parlare e scrivere, che è quello naturalmente del cosiddetto Datagate. Prendiamo questa volta, anziché un quotidiano europeo, prendiamo il New York Times. Questa segnalazione l'ho trovata sul sito di Press Europe, che è un sito bellissimo, che è collegato anche al settimanale internazionale. In questo caso infatti la traduzione di questo brano che vi leggo è di Anna Bisanti, che è una traduttrice di internazionale. Questo articolo, con un tono anche se vogliamo un po' sorpreso, cerca di spiegare agli americani come noi europei abbiamo preso questa notizia di essere sostanzialmente spiati. Per gli americani è molto meno, diciamo, sconvolgente, sorprendente sapere ufficialmente di essere spiati, un po' perché dopo l'11 settembre sono state introdotte delle norme di cui tutti sapevano, che permettevano di in un certo senso violare la privacy. E non solo, poi ci sono anche regole speciali adesso per gli interrogatori, ma restiamo alla privacy. Quindi negli Stati Uniti questa violazione della privacy è meno, ripeto, sconvolgente. Noi, quando ci pensiamo, forse ci fa un po' effetto che gli americani ci ascoltino, e quindi scrive il New York Times: pare che vi sia un po' di sceneggiata nell'indignazione che Francia, Germania e altri governi europei stanno manifestando da quando l'edizione online dello Spiegel, sapete che tutto è partito da lì, la rivista tedesca, ha riferito lo scorso fine settimana che l'NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana, NSA sta per National Security Agency, aveva spiato gli uffici diplomatici e tenuto sotto controllo i loro sistemi informatici interni. Spiare gli alleati dà una cattiva impressione, scrive il New York Times, e di rado è argomento del quale si discute apertamente, tranne quando, come adesso, alcuni documenti delle agenzie di spionaggio sono fatti pervenire alla stampa. Ma i governi di entrambe le sponde dell'Atlantico e di pressoché qualsiasi altra regione di fatto hanno spiato a lungo nello stesso modo alleati e nemici. È lontana ormai l'epoca in cui, spiegando la decisione presa nel 1929 di chiudere l'ufficio decifrazione codici del Dipartimento di Stato, il segretario di Stato americano Harry Stimson disse: i gentiluomini non leggono la posta altrui. È lontano appunto questo tempo, sono passati quasi 100 anni, più di 90, e scrive appunto il New York Times, abbiamo avuto più di 90 anni per renderci conto che le cose stavano cambiando. L'NSA, la National Security Agency, fu creata in gran segreto nel 1952 con l'incarico di intercettare ogni tipo di comunicazione proveniente da fonti straniere con qualsiasi dispositivo di ascolto immaginabile. Vi ricordo che potete leggere questo articolo sul New York Times in lingua originale. Il New York Times ha un sistema di paywall, però se è la prima volta che volete leggere un articolo ve lo permette, poi bisogna pagare, come forse giustamente è, visto che questo è un altro argomento di cui magari a volte ci capiterà di parlare. È un po' questa abitudine troppo buona che ci è stata data di poter trovare tutto gratuitamente su internet, poi siccome questi articoli qualcuno li deve scrivere, forse è giusto che a un certo punto appunto vengano fatti leggere, ma a pagamento. E il New York Times ha questo sistema di parziale paywall. Passiamo a invece, torniamo in Europa, a un quotidiano dei Paesi Bassi che si chiama The Volkskrant, e qui ci spiega un'altra questione di cui forse non parliamo spesso, che è quella delle difficoltà che hanno anche i Paesi Bassi, l'Olanda. Scrive questo quotidiano: il governo cerca l'aiuto degli investitori. Il governo olandese ha fatto appello ai fondi pensioni, alle assicurazioni e alle banche per rilanciare l'economia che stenta a ripartire. Quindi vedete, anche tutti i governi del mondo, probabilmente persino quello cinese, sono alle prese con una situazione economica molto complicata e ognuno deve trovare la sua formula, che non sta scritta in nessun libro, per appunto stimolare l'economia. Secondo il quotidiano olandese, l'anno scorso è partito il dialogo, appunto, sentite, addirittura l'anno scorso, quindi una di quelle notizie, forse perché il paese è piccolo, forse perché la crisi olandese non è come quella del Portogallo, però insomma io non ne avevo sentito parlare in questi termini. Quindi scrive il quotidiano olandese: l'anno scorso è partito il dialogo a porte chiuse con diverse istituzioni finanziarie, il cui capitale complessivo ammonta a 900 miliardi di euro. Sono state organizzate quattro tavole rotonde, incentrate rispettivamente su ipoteche, piccole e medie imprese, sistema sanitario, settore edile e delle infrastrutture. The Volkskrant sottolinea che un punto importante per le discussioni sarà quello di definire il genere di garanzie che lo Stato dovrà assicurare in cambio dei prestiti che sta chiedendo. A causa della recessione persistente, i Paesi Bassi hanno bisogno di altri 6 miliardi di euro per chiudere il bilancio 2014. Sempre in Europa vi segnalo un articolo di Le Soir, che è un quotidiano belga, e qui si parla di dumping sociale. Sapete che il dumping è quella pratica per la quale to dump vuol dire rovesciare, quindi a volte si usa in termine commerciale per dire che quando un prodotto viene riversato a basso costo su un mercato e quindi rovina, in un certo senso rovina gli altri, gli fa loro una concorrenza sleale. Ecco, in questo caso invece si parla di dumping sociale. Nel 2011 in Belgio si contava 337.189 lavoratori distaccati, ovvero dipendenti di aziende straniere mandate in Belgio per un incarico a tempo determinato, 120.000 in più rispetto al 2009. Secondo il quotidiano, nell'attesa di una nuova direttiva europea che regoli il sistema del distaccamento, questa pratica si sta trasformando in dumping sociale. Lo Stato belga è penalizzato tre volte, innanzitutto perché i lavoratori distaccati non pagano le tasse alla previdenza sociale belga, in secondo luogo perché i lavoratori belgi vengono licenziati mentre il lavoro viene assegnato al personale importato, e infine perché le aziende che rispettano la legge subiscono la concorrenza di quelle meno scrupolose che abusano del distaccamento. E a proposito di concorrenza sleale, vi segnalo invece dal Wall Street Journal un articolo apparso giovedì che parla degli aiuti agli aeroporti. Sì, ci sarebbero ben 61 segnalazioni da parte delle grandi compagnie aeree come KLM, Air France, che contestano gli aiuti che i paesi danno ai piccoli aeroporti. In Italia abbiamo soprattutto il caso di Orio al Serio, per favorire, perché questi aeroporti accolgono compagnie come Ryanair, che è ben contenta di volare da Orio al Serio con delle condizioni particolarmente favorevoli. Ma questo, secondo le grandi compagnie aeree, è una forma di concorrenza sleale. Avrei altre segnalazioni, ma manca il tempo. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi auguro un felice sabato e una felice domenica. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.